Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. C'è una figura identificata a livello europeo, fu identificata da una normativa del 91 che obbligatoriamente doveva essere inserita nelle aziende che avevano consumi energetici che superavano una certa soglia. Questa figura è quella dell'energy manager, ossia il gestore delle problematiche energetiche. Oggi questo tipo di figura sta diventando una figura molto più diffusa e rappresenta anche una opportunità professionale. Cerchiamo quindi di capire un po' meglio questa figura, ci aiuta in questa analisi, ma non potrebbe essere altrimenti, Dario Di Santo, lo abbiamo già conosciuto, che è direttore di FIRE, ovvero la Federazione Italiana per il Risparmio Energetico, che ha tra i propri compiti istituzionali, mi corregga se sbaglio Di Santo, quello di gestire gli elenchi degli energy manager. E intanto buonasera. Buonasera a tutti, sì, è proprio così, noi abbiamo questo incarico dal Ministero dello Sviluppo Economico. Come si diventa energy manager? Energy manager si diventa, per quanto riguarda la legge, in seguito a una nomina che deve essere fatta dal legale rappresentante dell'azienda o dell'ente che appunto è sottoposto all'obbligo di legge. Da questo punto di vista la legge non dice niente circa la formazione della persona, il suo inquadramento nell'azienda, anzi può essere un consulente esterno e quant'altro. Se noi invece vogliamo considerare l'energy manager, che ovviamente svolge delle attività di base all'interno dell'azienda, quelle sue proprie, quindi analisi dei consumi, gestione ottimale degli impianti, individuazione di misure, investimenti da fare per migliorare l'efficienza energetica degli stessi, in questo caso qui chiaramente è necessario avere una formazione che fondamentalmente è tecnica e mirata agli aspetti energetici, ma che per forza di cose è multidisciplinare, perché poi mette insieme anche altre competenze economico-finanziarie che servono per la valutazione degli investimenti, aspetti comunicativi, perché l'energy manager deve sostanzialmente mediare fra gli aspetti puramente tecnici e quelli che sono i dirigenti di un'azienda o di un ente che normalmente hanno una formazione completamente diversa, spesso umanistica o economica. E per penso all'ufficio acquisti, che sarà costantemente tentato fra acquistare una tecnologia, per esempio, che costa di meno e una tecnologia, esatto, che consuma di meno. Esattamente. Lì deve essere una battaglia... Niente male. Lo è, anche se esistono metodologie come la LCCA, l'analisi sul ciclo del costo di vita dell'impianto, che sostanzialmente cercano di aiutare gli uffici acquisti a fare delle scelte che tengano conto dei costi energetici dell'apparecchiatura, perché uno se li scorda all'inizio, ma dopo 3 anni di funzionamento, 5 anni di funzionamento, poi li paga, quindi meglio tenere conto, certo, da subito. Questo per aziende molto strutturate, e sono, sì, pochi, come dire, i posti di energy manager in Italia, se identifichiamo l'energy manager con la nomina richiesta legalmente. Ci sono poi tutta una serie di altre modalità in cui un esperto di energia può operare nel mercato del lavoro. Certamente. Allora, prima una piccola parentesi. Sì. Per quanto riguarda la nomina di legge, noi siamo nell'ordine dei 2200 soggetti nominati. Parlo dell'ultimo anno a cui è stata riferita la nomina, quindi il 2008, diciamo così. È un numero che è rimasto più o meno costante, però noi stimiamo che ci sia un tasso di inadempienza molto alto rispetto all'obbligo di legge, perché più o meno dovrebbero essere da 5 a 10 volte di più di quelli che hanno nominato. Ah, però. Sì, non è un dato banale, dai 10.000 ai 20.000 soggetti. Peccato, non sono mai state applicate le sanzioni di legge. Perché appunto il 91 è abbastanza lontano ormai. Decisamente. Sono passati 20 anni. Purtroppo, diciamo, questo dato è più o meno costante, è migliorato leggermente nell'ultimo anno. E poi, chiaramente, al di là dell'obbligo di legge, sì, diciamo che ormai il mercato offre tante opportunità, che in alcuni casi sono proprio quelle dell'energy manager, che può agire come consulente spesso e volentieri all'interno di uno studio, consulente indipendente. Uno studio di ingegneria, tipicamente, esempio, ecco, quello, sì, è un percorso tipico per accedere a questo tipo di professione, no? Fisica, è una ingegneria. E molti studi recentemente hanno cercato di darsi appunto delle competenze anche energetiche. Un'altra possibilità è quella di farlo all'interno di società che offrono servizi energetici, certo, quindi possono essere le cosiddette ESCO o società simili. Un'altra possibilità ancora è lavorare per quelle società che cercano di produrre energia in modo più efficiente o sfruttando le fonti rinnovabili. La consiglia come professione, cioè è una prospettiva che potrebbe essere interessante. Ci sono molti master, per esempio, in questo settore, se non sbaglio. Sì, Io sicuramente la consiglio, perché questo sarà uno dei temi centrali. La licenzierebbero se non facesse questo, no, comunque. A parte quello, è uno dei temi centrali che si avrà, diciamo, a livello globale, quello dell'energia, e quindi è ovvio che entrare in questo settore è sicuramente positivo. Nello stesso tempo il consiglio che do io ai giovani è, sì, cercare, se sono interessati a questo campo, fin dalla carriera universitaria, di trovare degli orientamenti, dei corsi di laurea che in qualche modo trattino gli aspetti energetici. In secondo luogo, può essere opportuno anche eventualmente fare un master, ma quello che conta di più per fare bene l'energy manager evidentemente è l'esperienza. Campo. E io suggerisco, specie ai giovani, eventualmente di essere disposti anche a vedere oltre, diciamo così, il confine nazionale. D'accordo, grazie Di Santo, ci risentiremo. Buonasera a tutti, grazie a lei. Mr. Kilowatt torna domani, andiamo all'area Science Park di Trieste a fare conoscenza di una novità tecnologica, una pompa di calore ad alta temperatura. Buona serata.